Capitolo 10. Il rito con l'acqua. Era ormai il primo mattino. La notte era stata lunga e intensa e le illustri antenate avevano bisogno di sgranchirsi le gambe e di lavarsi il corpo. Così si alzarono tutte e si diressero verso il torrente poco distante per compiere le abluzioni mattutine celebrando la cerimonia dell'acqua. Si svestirono ed entrarono nell'acqua fredda, limpida e corroborante, collegandosi con cuore, mente e utero all'energia della madre che penetrava e fluiva in loro. Si presero per mano e cominciarono a camminare lentamente in cerchio, fuori e dentro l'acqua, come salamandre, nude e lucenti, cantando un inno alla dea sole che si manifestava sulle loro venerabili teste. Ed io, Devana, che dell'acqua sono ancella, attendevo in prossimità del torrente con una brocca per versare sul loro capo e sulle loro spalle l'acqua benedetta e con teli di canapa e lino con cui potessero poi coprirsi. Durante la notte avevo ascoltato e annotato le loro condivisioni in assoluto silenzio, senza essere vista. Timida e impacciata in mezzo a tante illustri sorelle, pure desideravo un posto tra loro, a ricompensa della dedizione allo studio di una vita intera, la mia. Mentre versavo l'acqua sulle mie sorelle e le accoglievo nei teli immacolati, ecco venirne un altro gruppo dalla nostra parte. Christine de Pizan, la più libera tra le donne, conduceva con sé Miriam Magdal, la tredicesima apostola. Insieme a loro venivano le mistiche medievali Mirabai, indiana, e Al-Rabia, Sufi, che si ribellarono al potere patriarcale e al matrimonio combinato e offrirono la loro vita alla preghiera e alla poesia, e riversarono la loro sensualità su nessuno che fosse inferiore a un dio, vivendo in castità, ascetismo e povertà, e morendo nella grazia luminosa di chi ha difeso la sua libertà con coerenza ogni giorno. Venivano dietro a loro le grandi regine guerriere: Antinea, regina dei Tuareg; Zenobia, regina di Palmira; Semiramis, regina di Babilonia; Boudicca, regina degli Iceni, che avevano creato nuovi popoli o li avevano difesi dalle invasioni e dai massacri con tenacia, lucidità e coraggio. Chiudevano il corteo le potentissime sciamane trasformate in maghe dalla storia divenuta mito, Medea e Circe, donne di tale sapere e potenza che i libri degli uomini non hanno potuto fare altro che scriverne male per cancellare perfino il loro ricordo. Le nuove arrivate furono accolte con gioia e invitate ad entrare nell'acqua per condividere la cerimonia. Poi furono offerti loro i panini dolci rimasti, frutta e tè. Quando si furono rifocillate, presero posto all'interno del cerchio che si era ricreato intorno al fuoco ormai morente e Christine, dopo avermi invitata a sedere accanto a sé, parlò.